Se un giorno non dovessi suonare più, mi metterei a incartare caramelle. Sono uno specialista, ma io non smetterò. Un vero chitarrista muore, deve morire sul palco. Ivan Graziani. Graziani. Il jingle d'un'altra, un'altra Radio Roma for you, per il nuovo anno. Il jingle d'un'altra. Io aggiungerei anche. For you, per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma? Una radio a caso. Il jingle d'un'altra. A caso. Per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma. La più grossa radio web. Web. Per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma, la radio che ti manda su un altro pianeta. Un'altra Radio Roma. Radio Roma. La più grossa radio ti manda su un altro pianeta. A caso. Per il nuovo anno. Thank you. Buonasera! Mi viene da dirvi buonasera, non so perché, forse semplicemente perché è sera. Ci ritroviamo qui pronti per un nuovo appuntamento, un nuovissimo appuntamento che tenterà di portarvi novità, novità musicali, portarvi soprattutto la fantasia che ricopre il DJ di turno, perché dovevamo essere tutti e cinque oggi, ma poi all'improvviso qualcosa è scoppiato nell'aria che ha investito tutti quanti i VJ di questa web radio. Ma perché non si sa, o forse lo scopriremo durante questa diretta. Le novità musicali che ho da passarvi sono tantissime, sono veramente notevoli, sono anche ultime uscite, quindi tenetevi pronti per assaporare diversi generi musicali. Ho con me una valanga di musica che fra poco vado a esporvi. Parleremo anche di qualcosa di interessante, tipo quello che sta accadendo in Italia. Legacy, le liberalizzazioni della SIAE. Qui a un'altra Radio Roma si ride e ci si diverte. Come dire, so 2 anni che ve lo diciamo, che esiste un nuovo modo di licenziare la musica attraverso, appunto, le Creative Commons. Un saluto a Mr. Cocot che è a letto con l'influenza, e sì, anche lui ha beccato un brutto virus. L'artista con cui abbiamo aperto questa diretta un progetto che trovate su Jamendo, e risponde al nome di Peer Gynt e Lobo Gris. Il brano si intitola Free World. Un bel modo di iniziare, un bel modo di darvi una carica, una scarica di adrenalina! Di adrenalina ce n'è veramente tanta, ed è così che questa diretta nasce. Una diretta, direi, a caso, carica però di energia, quella che un'altra Radio Roma porta con sé da diverso tempo. Ed è così, andiamo a caso, che vado a lanciarvi il prossimo brano a caso, senza sapere di che si tratta. Io farei proprio così. Licenziati anch'essi Creative Commons, The X, Diamond Ecstasy, su un'altra Radio Roma. Banish your fools, dancing with a heart, no matter what will it dance, there's no more rings to make your love. Losing my mind, from where I think, ringing in a fall, endless with my eyes closed, infinity with all my thoughts. The really barriers, flashing the cruiser, fight a bird, raising along the past. Now I am burning. Dabam, dabam, dabam, do, dabam, do, dabam, do. Ecstasy. Smoking the color, running all over. Moves an hour, our bodies are spellbound. I drill in my ecstasy. Barriers. my soul. Loro sono Luca Ascari e Stefania Lapertosa, li trovate su Giamendo, sono di Capri e ci propongono un soul jazz orchestral che abbiamo ascoltato qui su questa web radio fantasma. Ripeto, loro sono i The X, pubblicano questo lavoro il 21 gennaio del 2012, guarda un po', proprio l'altro giorno, e si intitola il brano, la traccia che stiamo ancora ascoltando, Diamond Ecstasy. Questa web radio nasce circa 2 anni fa, e sì, circa 2 anni fa succede qualcosa. Noi cominciamo a dire al mondo intero che si può far musica, si può licenziare musica in modo diverso, che la SIAE si è arrogata un diritto che forse è anche un po' antiquato, lo dicevamo 2 anni fa, abbiamo provato a ripetervelo in tutte le maniere, attraverso le nostre trasmissioni, attraverso i nostri lavori, attraverso i podcast, attraverso le dirette, le recensioni o la nostra web TV, abbiamo comunque sempre sbandierato un unico credo, quello delle licenze Creative Commons, o comunque licenziare diversamente dalla SIAE le proprie opere. E in questi giorni è successo qualcosa di particolare, qualcosa che può lasciare tutti quanti basiti. Che cosa è accaduto? Che il nostro governo del Consiglio ha deciso di liberalizzare il diritto d'autore e quindi non al monopolio SIAE. Io su questa piccola cosa andrei a leggere 2 articoli, ve ne leggo uno adesso e poi proviamo a fare un piccolo dibattito. Se volete potete entrare in contatto con me attraverso Mille Mics, preferibilmente, oppure attraverso Facebook. Vado a leggere questo articolo che è del 22 gennaio, quindi proprio di ieri, per chi ascolta questa diretta in diretta, perché poi chi ascolterà la replica in fuso radio, stiamo parlando di domenica. Firmato da Marco Scialdone e Fabrizio Ventriglia, trovo in Il Futurista, leggo questo articolo. Evidentemente l'abolizione del monopolio in maniera di diritti d'autore e diritti connessi non era una proposta da pirati. Il decreto liberalizzazione del governo Monti, con una scelta storica, ha deciso di aprire alla concorrenza il settore dell'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente quelli degli artisti, interpreti ed esecutori. Si legge infatti nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri che alla fine di favorire nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo di un pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione al controllo da parte dei titolari di diritto. Salto quelle che è la legge e vado avanti. Si è dunque finalmente cominciato a comprendere e prendere atto che è stato proprio il monopolio la barriera principale alla giusta remunerazione degli artisti negli ultimi anni, senza dover necessariamente richiamare lo spettro della pirateria e dell'internet cattiva che avrebbe privato del sostentamento coloro che lavorano con creatività nel campo musicale. Va detto che quella decisa dal governo non è una liberalizzazione completa, perché resta in piedi il monopolio SIAE in materia di diritti d'autore. Un monopolio che soprattutto dopo il decreto di liberalizzazione, non ha più ragione di esistere e la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principali di concorrenza che lo ispirano appare alquanto dubbia. Peraltro, come si ricorderà, lo scorso anno il ministro per i beni e le attività culturali era stato costretto a procedere al commissariamento della Società Italiana Autori Editori, considerata l'impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi e la mancata approvazione del bilancio preventivo con i danni scaturenti. L'inefficienza ed i costi della gestione della SEAI sono tristemente noti, bilancio del 2010 alla mano, quest'ultima poteva contare su 1.346 dipendenti e 56 dirigenti, un numero assolutamente sproporzionato per le attività attribuite dalla legge. Un'inefficienza destinata a scaricarsi a valle sui costi dell'iscrizione per i giovani autori. La SEAE impone ai suoi iscritti la corresponsione di una quota pari a 128,52 euro di registrazione, con un'aggiunta di 89,70 euro al titolo di quota annua. Per gli editori invece vi sarebbero da affrontare spese di 1738,08 euro e 400, vabbè, eccetera, delle somme che la SEAE detiene. C'è allora una grande occasione nel passaggio parlamentare, continua l'articolo, di conversione in legge del decreto appena approvato. C'è la possibilità di completare la liberalizzazione iniziata al governo e restituita al mercato quell'attività di intermediazione dei diritti d'autore che da decenni è vittima dell'inefficienza del monopolio. Ragionate, gente, e adesso ascoltatevi questo gruppo che ha prodotto un nuovissimo album, è stato pubblicato da poco su Jamendo. Loro sono i Boom Boom Baguette con Attenti al Lupo. Thank you. Jazz qui su un'altra Radio Roma. Non ci si ferma davanti a nulla. Noi vi proponiamo gli artisti che ci emozionano. Sono circa 2 anni che facciamo questo. Sono circa 2 anni che cerchiamo di dirvi in tutte le maniere dove trovarli, dove scaricarli, e sicuramente non potete dirci che tutto quello che state ascoltando in questa trasmissione non vi emoziona. Questa trasmissione è un esperimento voluto da noi DJ dell'altra Radio Roma, quello di occupare uno spazio, un palinsesto, quello del lunedì per le dirette, e poi replicarlo il venerdì su Fuso Radio, avendo anche dei riscontri, delle affermazioni in quello che facciamo. Ci fa piacere, andiamo avanti, e quando dovevamo essere in 5 oggi sicuramente questa trasmissione avrebbe assunto un carattere assolutamente diverso. Per quale motivo? Perché quando siamo tutti quanti non si decide nessuna linea e si va così a caso, mentre nelle altre appuntamenti uguale andiamo a caso. Stiamo proponendovi continuamente tutti i lunedì 2 ore e 2 ore di musica, 2 ore di musica per far sì che voi conosciate nuovi artisti e nuove esperienze. Andrei con una formazione che in qualche modo mi hanno stupito, mi hanno colpito. Cambio completamente genere e vado a parlarvi di una formazione che è di Vercelli, italiana anche questa, e suona insieme circa dal 2000, sì, dal 2000. Ci presenta un heavy metal, quindi preparatevi a saltare da dove vi trovate. Questo serve per far passare la febbre a Cocot. Quindi, dicevo, questa formazione di Vercelli ha pubblicato un album su Jamendo, questo è il terzo, ed esce il 20 gennaio del 2012. Loro si chiamano Sistema Liquido e il brano che ho scelto per noi questa sera si chiama Alienato. Buon ascolto. Cosa è successo tra di noi? Tra di noi? Che cosa è successo? Cos'è successo? Adrenalina su un'altra Radio Roma. Ve l'avevo promesso il titolo di questa trasmissione: Adrenalina, una scarica di energia. Qui ne abbiamo da vendere, qui ne abbiamo a milioni. Siamo qui pronti, prontissimi per imbottirvi di buona musica. Ripeto, loro erano Sistema Liquido, li trovate su Giamendo e vengono da Vercelli. Veramente un bel gruppo da scoprire. Ne sentirete parlare ancora qui su un'altra Radio Roma, non vi preoccupate, ve lo passeremo ancora. Ma andiamo avanti con quelle che sono le scelte musicali che io ho fatto per voi. Chiamano il Nude e il brano si intitola Strike. Please. The Boods è il nome della formazione che state ascoltando, che sfuma sotto la mia voce, e il brano si intitolava Rotative, un po' come la mia lingua questa sera, è ruotata su se stessa. Mentre io sono in diretta dall'altra parte della regia c'è Mr. Cocot che prova a spiegare la differenza tra le licenze SIAE e le Creative Commons, o comunque fuori dalla produzione SIAE, ma non ci riesce, mi sembra. Non fa nulla Cocot, insistisci che ce la puoi fare. Bene, quella che la musica esprime lo trovate attraverso i nostri lavori. Stiamo riorganizzando un po' tutto quello che è il nostro sito, quindi pazientate per un po', e tra poco troverete un sito nuovo, più semplice da gestire, più facile per reperire le cose. Di chiacchiere ne abbiamo già fatte tante durante questa trasmissione, ne faremo ancora tante, perché ho anche un altro articolo da dovervi leggere, un articolo che conferma quello che diceva poc'anzi l'articolo di liberalizzazione del diritto d'autore. Quindi andremo avanti su questo argomento che è fresco, è nuovo per noi dell'Altra Radio Roma. Quindi noi su un'Altra Radio Roma andiamo avanti con la musica, come dicevo prima, a caso. Vediamo che cosa c'è a seguire. Brano da 1 minuto e 55, da dove? Che vi ho proposto una cosa che avete sentito, risentito, ma pensate che loro vengono dal Giappone, si chiamano The Feedways e ci hanno presentato Northwest, e mi so pure mozzicare la lingua per dirlo, pensa un po'. Mi racconti un'altra Roma. Sì. Sei connesso. radio.com. Ma te non sei connesso. Guarda radio. Fratello, c'è NartraRadioRoma.org. Per imparare a vivere ci vuole tutta la vita e, cosa ancora più stupefacente, ci vuole tutta la vita per imparare a morire. Lucio Anneo Seneca. Gorg Midius, lui è Dominique De Vangelis, ha fatto anche un album che trovate su Giamendo dal titolo Vaticano, boh, qualcosa del genere. Non so se ha qualche cosa a che fare con il Vaticano. Noi no. Noi proprio nulla. Noi l'unica cosa che sponsorizziamo sono tutti gli artisti che decidono di licenziare le proprie opere attraverso la Creative Commons o licenze possibilmente diverse da quelle SIAE. Perché? Perché è un monopolio, perché non permette i guadagni reali agli artisti, come già abbiamo visto leggendo l'articolo. Ne abbiamo un altro da leggere, lo leggeremo più avanti. La traccia che avete appena finito di ascoltare è stata pubblicata da pochissimo, il 23 gennaio del 2012, su Giamendo. E noi, per le novità, abbiamo fiuto, siamo lì, pronti per passarvi tutto quello che ci piace. e in qualche modo la musica di questo giovinotto, di questo giovine, ci piace, depennato. Andiamo avanti con la tracklist. Revolution and Void dall'America, dall'America ci presentano City Lights at Night. We'll be right back. Marina Pennisi, il 23 gennaio 2012, scrive: monopolio SIAE abolito, anzi no. I minuti successivi alla conferenza stampa di presentazione del decreto liberalizzazione del governo di Mario Monti hanno fatto sperare in merito a una rivoluzione e cambiamento della gestione dei diritti d'autore, tradizionalmente nell'esclusivo mani della Società Italiana degli Autori ed Editori. Ulteriori verifiche e analisi di quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 39 del decreto, che ricordiamo deve ancora passare al vaglio del Parlamento, hanno permesso di dare una chiave di lettura più precisa. A venire toccati, al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, sono i diritti connessi al diritto d'autore, la cui attività di amministrazione e intermediazione diventa libera. Monti e Company sono quindi intervenuti nel campo d'azione del nuovo IMAIE, che si occupa appunto della riscossione e tutela dei diritti spettanti, ad esempio, ad artisti che effettuano registrazioni o legati all'immagine dei titoli delle opere e hanno imposto la concorrenza all'interno dello stesso. Si tratta, come spiega a Brider.it il segretario di Agora Digitale Luca Nicotra, comunque di un successo enorme che apre ad altre modifiche del settore. Se passa l'idea che una competizione tra enti commerciali o cooperative di autori è vantaggiosa e utile, o ulteriore apertura sono possibili. Il capitolo IMAIE, aggiunge Nicotra, era intoccabile alla stessa stregua di quello SIAE. Non è un caso il commissario straordinario Gianluigi Rondi ha sentito il bisogno di ribadire l'importanza del ruolo della società autori ed editori nel giorno dell'approvazione da parte del CDM del decreto. In Parlamento, aggiunge l'avvocato Guido Scorza, sono già presenti 6 o 7 disegni di legge atti ad abolire il famoso articolo 180 della legge 633 del 1941, che tiene da anni sotto scacco chiunque voglia accedere a materiale con il bollino SIAE. Scorza cita, per rendersi conto degli effetti di una gestione monopolistica del settore, lo studio dell'Istituto Bruno Leoni, secondo il quale, fatto il costo di una serata pari a 7 musicale in termini di diritti in Italia, in Inghilterra bisogna sborsare solo 1. La medesima analisi evidenzia come l'attuale regolamento costi e soggetti coinvolti, autori, discografici e fruitori, è pari al 13,5 milioni di euro l'anno. colpa dell'effetto serra o del buco dell'ozono il fatto che io ho completamente la lingua come una ciabatta questa sera. Sarà forse colpa di Mr. Cocot che mi ha passato l'influenza? Boo. Loro, quelli che sentite ancora sotto la mia voce, rispondono al nome di Dan Max. Il brano Free Your Mind. Andiamo avanti con quello che è la musica, con quello che è il panorama artistico musicale qui che abbiamo scelto ad Art Radio Roma, e vorrei presentarvi un gruppo particolarmente interessante. Loro rispondono al nome di Metronomi, sono di Mogliano Veneto. Sì, nascono tra Veneto e Milano esattamente. Hanno una storia un po' travagliata, sono Beppe, Andy, Sergio, Davide e Andrea. Dicevo, hanno una storia un po' travagliata perché nascono nel 2000 e cominciano a fare la gavetta finché non scoprono di avere una sorta di talento, cominciano ad avere i primi riconoscimenti, fino a che a un certo punto non si legano a un'etichetta. Nel 2010 fanno un album e decidono di licenziarlo, pensate un po', Creative Commons. Lo pubblicano il 18 gennaio del 2012 su Giamendo. Loro ci presentano un rock elettronico, pop io direi tranquillamente. L'album si intitola Share e il brano si intitola Post. Like la più grossa radio ti manda su un altro pianeta a caso per il nuovo anno. I thought I'd been in love before. My sky was no longer gray. But friends warned me when things got tough, she would turn and she'd run away. You know it took a while, but I finally realized what I thought was a broken heart was mostly my injured pride. I knew just what to do. I came back from the other side of the blues. So I've been down this road before, and I found my way back again. But this time it's different. Can't find my way back again. You know it's been a while, but it still hurts like yesterday, the day that you left me. I guess I just lost my way. I don't know what to do. I'm lost on the other side. You know the blues will tear you down and break your world apart. I didn't see it coming, girl. Never thought you could crush my heart. I wonder what I might have done to make you want to stay. I couldn't have loved you more, so why did you run away? I don't know what to do. I'm lost on the other side of the blues. This time it's different, babe. Can't find my way back again. You know it's been a while, but it still hurts like yesterday, the day that you left me. I guess I just lost my way. I don't know what to do. I'm lost on the other side of the blues. I don't know what to do. I'm lost on the other side of the blues. Other side of the blues. Necessary Rod, loro sono una formazione americana e la trovate su Jamendo, hanno pubblicato questo lavoro il 18 gennaio del 2012 e noi ve lo abbiamo proposto come proponiamo tutta la musica. Abbiamo scelto un brano blues per rilassarci un momento, da tonalità, da suoni diversi, da suoni più forti. Novità, novità su un'altra Radio Roma. Sì, ci sono delle novità. Ci stiamo riorganizzando nel nostro sito e stiamo aprendo una pagina delle dirette, dove troverete tutte queste dirette, questa è come quella che state ascoltando in questo momento, postate successivamente sopra al blog. Bene, detto questo, io andrei avanti con la musica e andrei avanti appunto con i brani che ho scelto per tutti quanti voi. Andrei nella selezione rapidamente, come è solito in questa radio, e passerei quest'artista che ci presenta un electro house. Magliano DJ, il 19 gennaio del 2012, propone questo lavoro. Tu fai. Thank you. Cava dei Tirreni propone questi artisti. Lui è Magliano DJ che ci ha presentato il suo Electro House dal titolo Tofar, che trovate su Jamendo. Felici, felici e contenti, perché mi sto mangiando tutto un vassoio di frappe, perché siamo a carnevale, sto festeggiando. Vi voglio presentare un brano dal titolo un po' particolare, Run Baby Run. Loro sono i Mondie e voi vi trovate naturalmente su un'altra Radio Roma, la radio che parte in quinta, perché sta avanti a tutti. in September, German Bad su un'altra Radio Roma. Che bei tempi quando intervistavamo i gruppi qui su un'altra Radio Roma. Io e Mr. Cocot che ci divertivamo a intervistare soggetti come i German Band, i palcoscenico al Neon, o i circuiti aperti o altre formazioni. Veramente, veramente bello. Torneremo presto a proporvi queste formazioni. Convinti che questo è il nuovo modo di proporvi musica, noi qui da Un'altra Radio Roma andiamo avanti. Piccola curiosità. Il canale da cui trasmettiamo è un canale che si chiama appunto 1000 Mics. È un canale che ci permette di trasmettere in streaming utilizzando delle forme, diciamo così, libere. E ci sono delle classifiche. Curiosità, noi siamo alla quarta posizione della classifica inglese. Chissà il motivo? Io un dubbio ce l'ho, ma non lo dico. Chi avesse perso questa trasmissione può tranquillamente andare su Fuso Radio venerdì per scaricare la replica, oppure il podcast lo troverete in futuro sulla nuova pagina delle dirette dell'Altra Radio Roma. A momento opportuno vi spiegheremo tutto quanto. Comincio a salutare tutti i miei colleghi che non sono stati presenti e spero che per la prossima diretta saranno qui con me tutti quanti, visto che oggi non c'era nessuno e mi sono dovuto mangiare la torta per festeggiare questa possibile liberalizzazione del diritto d'autore. Detto questo, saluto tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che pazientemente sopportano e ci supportano queste ore di musica proposta e propinata da noi DJ. Vi do appuntamento prossimamente, esattamente fra una settimana. Gasperino vi bacia e alla prossima. Non dimenticatevi che l'Arta Radio Roma sta avanti, molto, molto avanti. Adepti e adepti, possiamo incominciare l'Arta Radio Roma. Segui social. Podcastesimo. Colò, colò, colò. Nuova religione, il podcastesimo. Podcastesimo. Certo. Podcastesimo. Podcastista. Un podcastista. Podcastesimo. Podcastesimo. Il nuovo santissimo podcast della religione del podcastismo. Ragazzi, ma il podcastismo va avanti, un'altra Radio Roma. Sì, social. Podcastista. Podcastista. Un'altra Radio Roma. Sì, social. Un'altra Radio Roma. Podcastismo. Nuova religione, il podcastismo. La religione è un movimento. Sì, social. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piazza. Ma no, sei credibile. www.entraradioroma.org